caldo. Vabbè, si può fare, faccio benissimo così, non c'è problema. E allora Giulietta, resta così. Cara gara, allora senti nessuno. No, però il tipo, Franco stava la mia televisione, io ho tutto acceso qua, sentito gli bippi. Dopo il bambino con Franco, la segnala. E niente, ti ho chiamato. Anche io stavo la televisione, avevo messo per un momento, ma poi segnala 10 e 20. Thank you.